The health experts continue to confirm to us that based on the latest information, for the American people as a whole, the risk of serious illness remains low. Ciao Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Cosa abbiamo appena ascoltato? Erano le parole di Mike Pence, perché io purtroppo mi permetto, con la massima stima e affetto e che ho per Alberto Rioli, di non essere d'accordo con lui, perché ascoltare ieri la conferenza stampa di aggiornamento dalla Casa Bianca, per i primi 10 minuti Donald Trump ha spiegato che era molto happy, ma veramente l'ha detto tipo 4 volte, per le mosse della Federal Reserve, che si complimentava con la Federal Reserve. Dopodiché di coronavirus lui non ha parlato, perché guarda soltanto l'andamento delle borse, ha lasciato la patata bollente, possiamo dire, al vicepresidente Mike Pence, che dicendo: sulla base dei dati che abbiamo, ripetiamo che per gli americani nel loro complesso il rischio è basso. Allora, non lo so, qui c'è una specie di negazione della realtà, perché poi mentre si svolgeva questa conferenza stampa con sul podio tutti accalcati intorno a Trump ad annuire e in platea i giornalisti tutti accalcati, non ho visto neanche una mascherina, si svolgeva anche il dibattito, invece quello programmato da molto tempo, ospitato dai giornalisti della CNN, tra Bernie Sanders e Joe Biden, che hanno parlato molto di coronavirus. Erano separati da 6 piedi, cioè 2 metri, perché questa è la distanza consigliata, in una stanza completamente vuota, con i giornalisti molto lontani e molto distanziati tra loro, quindi insomma, e lì hanno tra l'altro, facendo riferimento proprio a quei dati scientifici, tipo quelli di Anthony Fauci, che è l'infettivologo al quale in teoria Donald Trump starebbe dando ascolto. Giulia, che altro, perché la questione, diciamo, Trump sicuramente ha alternato momenti di negazione a momenti di, invece, quando è stato dichiarato lo stato d'emergenza, e comunque sì, anche perché sai, di questo danno conto tutti i giornali americani. Sì. Nel frattempo, a livello locale, governatori, sindaci, sceriffi dichiarano dei lockdown. Sì, però appunto, come dici giustamente tu, c'è un comportamento un po' schizofrenico. Mi ricorda un po', senza fare paragoni troppo stringenti, quello che è accaduto anche io da noi. Io ci sono di nuovo. Ecco, dico, mi ricorda un po' quello che è accaduto anche da noi all'inizio di questa emergenza, quando un giorno si diceva è solo un'influenza, il giorno dopo chiudiamo tutto, eccetera, eccetera. E questo forse sì, si sta un po' ripetendo. Sì, se sentiamo, perché come dicevamo anche in passato, sta diventando un tema di campagna elettorale, quindi per ora ancora di duello Biden-Sanders, ma sicuramente da qui a novembre sarà un tema, perché come sappiamo insomma, il coronavirus non guarda alle scadenze elettorali. Quindi se vuoi sentiamo questi audio di Sanders e di Biden, che dicono la loro proprio su questo e su un altro tema importante che mi sta molto a cuore. Andiamo pure. My cabinet, my administration will look like the country, and I commit that I will in fact appoint I'll pick a woman to be vice president. Questo era Biden, che cosa dice? Dice, ed è una cosa secondo me semplice e sensatissima, il mio, l'eventuale mio gabinetto rispecchierà il paese, nel paese ci sono metà donne e metà uomini, quindi la mia candidata vicepresidente sarà una donna, quindi as simple as that, non perché siamo migliori, non perché siamo più preparate, più intelligenti, ma semplicemente perché rappresentiamo la metà della popolazione di qualsiasi paese. Adesso abbiamo Sanders, sentiamo. The vice president committed to picking a woman as his running mate. If you get the nomination, will you? In all likelihood, I will. Cosa ecco, detto? Qui è stato un po' colto di sorpresa, perché la giornalista ha detto il suo contendente ha appena dichiarato che avrà una vicepresidente donna candidata, e lui ha risposto in all likelihood, sì, molto probabilmente sì, però insomma non è apparso molto convinto, però intanto è on record, quindi l'ha detto. Poi naturalmente c'è la situazione, per restare in mondo anglosassone, sì, della Gran Bretagna. Anche lì Boris Johnson, sotto pressione, ha promesso conferenze stampa molto più frequenti di quelle che aveva annunciato all'inizio, quindi ce ne dovrebbe essere una al giorno / due, ma la foto che ha fatto impressione è questa di questa mezza maratona che si è corsa a Bath, e dove vi lascio immaginare, i maratonetti soprattutto nella fase iniziale sono vicinissimi, sudano, si respirano addosso. Nella foto che pubblica l'Independent non c'è neanche una mascherina. Diciamo che se volevano raggiungere l'immunità di gregge, così ci si stanno avvicinando. È una battuta, ma non so quanto ci si possa ridere. Che altro, Giulia? Giornali europei, Germania, mi segnali? Sì, che... devo dire che sì, in Germania per fortuna c'è un po', dico per fortuna, perché comunque il coronavirus è una grandissima crisi, ma ovviamente se guardassimo quante persone, quanti bambini muoiono di fame per esempio ogni giorno, quanti sono i rifugiati, i numeri sarebbero altrettanto impressionanti. E quindi la Germania si occupa ancora un po' di Siria e di quello che sta succedendo sul confine tra Turchia e Grecia, e delle risposte di fatto assenti o provocatorie di Assad agli appelli persino di Putin. Ultima cosa, visto che il tempo abbiamo ancora un minuto, Israele, sì. Forse Giulia, perché contrariamente a quanto abbiamo ritenuto fin qua, Netanyahu, invece all'ultimo minuto spunta Gantz. Sì, la fa franca, diciamo, perché anche lì i tribunali ovviamente sono chiusi per quanto riguarda le prossime sue scadenze processuali, ma il presidente di Israele ha dato l'incarico a Gantz. Sottolineo però che tutti i giornali israeliani cominciano a chiedersi che cosa succede se il coronavirus, che in Israele è già molto diffuso, si espande sulla striscia di Gaza o comunque nei campi profughi, non in altri campi profughi dell'area, della regione. Una domanda che fa venire un po' i brividi. Grazie Giulia, fermiamoci qua, abbiamo finito il tempo a disposizione, tra poco c'è hashtag autotrasporti, noi ci risentiamo domani anche con te e con Effetto Giorno, Paolo Corleone in regia, Jacopo De Franchi in redazione, Danilo Di Trani in assistenza oggi, da Alessio Maurizi l'augurio di una buona giornata, ci risentiamo per l'aggiornamento delle 14.00.